look, sick look. Scusami, non t'ho capito, dovrei prendere un chilo. Scusami, non t'ho sentito, devo cucinare un litro. Scusami, non t'ho capito, stavi parlando di me. Scusami, non ho sentito, dimmi, ti serve qualcosa? Scusami, non t'ho capito, dovrei prendere un chilo. Scusami, non t'ho sentito, devo cucinare un litro. Scusami, non t'ho capito, stavi parlando di me. Scusami, non ho sentito, dimmi, ti serve qualcosa? Vedi, facci piano, scusa, non ho sentito. Ero di là mentre cuocevo il litro. Parli male di me col tuo nuovo amico. Amore, non ti sento, sto solo e mi è burrito. No, veramente non ti capisco. Se hai problemi, fammi uno squillo. 06777, rispondiamo come un call center. Che ti serve, bianca, giallo, cash? Per 2 grammi strisci come un verme. La tua troia, si mi chiama sempre. Ho tanti problemi, non di figa e soldi. Soldi per terra come i mendicanti. Prega, zlatan, mi spaventa passeri. Contando tu fai tu con i passi. Sto con una porno, starto con una rizza, cazzi. Cristo è un coppone ed Eva la sua troia. Rione, monti, via dei capocci. Collana al collo come un cardinale. Attenta al gradino che ti fa male. Se premo il grilletto so che ti fa male. Questa roba ti lascia senza presa a male. Questa roba ti lascia senza casa al mare. Scusami, non t'ho capito, dovrei prendere un chilo. Scusami, non t'ho sentito, devo cucinare un litro. Scusami, non t'ho capito, stavi parlando di me. Scusami, non ho sentito, dimmi, ti serve qualcosa? Scusami, non t'ho capito, dovrei prendere un chilo. Scusami, non t'ho sentito, devo cucinare un litro. Scusami, non t'ho capito, stavi parlando di me. Scusami, non ho sentito, dimmi, ti serve qualcosa? Scusa, ma non t'ho mai visto, no. Analisi dell'infame, risulti positivo, yeah. Mi metto una voce in testa come un canarino, yeah. Ma se non parli di cash proprio non capisco. Soldi fanno girare il mondo, non so se capisci. Non ti fare impressionare da questi vestiti, no. Chi pensi di impressionare con gioielli finti? Chi pensi di spaventare con un ferro finto? La tua attitudine fa schifo, schifazzi, ma perché deste via come una calamita? RM1 no, non puoi portarci via. DPC triplo siatto ed è per la vita. E se pensi di bloccarci, stai solo prendendo in giro. Tutti provano a fermarci. Andale, andale, levati dal cazzo, vattene. Assieme i soldi intorno all'orologio. Non voglio il nome di mio fratello sul necrologio. La tua ragazza è una mia foto nel portafoglio. Succo di zenzero, non mi sento la voce. Busta nei cash, dai in boxer Versace. Sta merda come un buco nel torace. Stai attento a non soffocarti. Baby, facci piano.